Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed entriamo nella seconda parte di Blu Radio Sera, in quella di Blu Radio Veneto, sempre insieme a Maurizio Calzavara, che tra poco sentirete, e qui alla parte tecnica Sergio Bortolami. Maurizio, andiamo a fare un bel giro in Sicilia, mamma mia. Un Sicilia però... Mamma mia. Sì, un giro in Sicilia perché Carmelo a Meta. Buonasera Carmelo. Ciao. Ciao a tutti. Però abiti a Roma nonostante tutto. No, io vivo in Sicilia. Ah, vivi in Sicilia, perfetto. In un paesino vicino a Siracusa. Ah, perfetto, ora siamo in Sicilia, assolutamente. In Sicilia. È una bella cosa. E tu hai fatto, innanzitutto è un disco nuovo, si chiama L'Erba Cattiva, già un titolo forte al Carmelo. L'Erba Cattiva è il mio disco del 2010-2011. Esattamente. Di personcine che non si fanno chiamare gente, è un disco che mi ha portato un bel po' di cose, devo dire, so bello, insomma, oltre 16.000 downloads. Però, bello, però bella... complimenti, mica pochi. Complimenti. No, infatti, è andata benone. Adesso ho finito anche di registrare l'album nuovo. Bene. Che uscirà nel 2012. Intanto produzione di Paolo Messere. Con la produzione di Paolo Messere. Che è un altro produttore italiano, un produttore indie molto importante secondo me. Assolutamente sì, e tra l'altro un grande amico, insomma... veramente un grande amico, poi a livello artistico è una delle persone più interessanti che io ho conosciuto, insomma, è veramente una bella persona e assolutamente molto preparata. Quando siamo stati in studio insieme a lui siamo diventati una piccola famiglia, una cosa che è capita di grado, purtroppo è solo bello, insomma. Paolo. Paolo è nel mio cuore. Dobbiamo anche ringraziare Valeria Soce, che grazie a lei questa sera ti posso intervistare. Grande Valeria, lei ha fatto l'ufficio stampa, lei è l'ufficio stampa dell'Erba Cattiva, una cosa, ha fatto un lavorone incredibile, guarda. Hai cominciato a cantare e suonare giovanissimo, hai un sacco di esperienze, dai, ce ne parli un poco, dai Carmelo. In verità non è che abbia fatto... tutto questo granché. Beh, insomma, hai fatto. Che suono da un sacco di tempo, semplicemente, quindi con tutti i vari gruppetti, le cose che hanno fatto un pochettino tutti, quindi abbiamo fatto tutti quanti festival, ci siamo divertiti un sacco e poi insomma la cosa più importante. E poi in età adulta, insomma, diciamo, ho deciso di fare le cose a nome mio, quindi ho fatto 2 EP. Uno del 2008 ho fatto L'Erba Cattiva, sì. Con L'Erba Cattiva un po' le cose hanno incominciato a girare, nel senso c'è stato un po' di interesse, ma ero completamente impreparato, infatti ho fatto dei mini tour così un po' in giro, ma non l'ho portato perché non ero realmente pronto. Adesso Paolo mi ha dato proprio un indirizzo forte. Che non pensavi non pensavi a questo movimento positivo nei tuoi confronti, insomma. Per la verità un pochettino c'è di... non è superficialità, neanche strafottenza, insomma, diciamo una via di mezzo, ecco, insomma, ero messo lì a fare la mia musica, ero tutto contento, ho detto, caspita, ho fatto un bel disco, secondo me, adesso lo facciamo sentire. Quando ho contattato Paolo, lui mi ha portato da Valeria e poi si è mosso tutto, probabilmente un po' troppo in fretta, infatti alla fine ho fatto un mini tour, ma l'ho fatto acustico, ho fatto alcune date da solo e alcune date semplicemente con un percussionista, che è il percussionista che suonerà nel disco nuovo. Chiaramente, insomma, si sarebbe potuto fare un pochettino di più, però è andata lo stesso nel senso positivo, hai aperto, hai allargato i tuoi orizzonti, adesso c'è il disco nuovo che sarà chiaramente più pensato. Però questo Erba Cattiva non è un brutto disco, è un disco interessante, tanto c'è questo incrocio del tuo amore tra il blues e il jazz, questo c'è, è presente secondo me, Carmelo. No, è bello, insomma, che comunque si noti. Io ho un grande amore per questi generi, ho un grande amore per la musica in generale. Devo dire, il blues e il jazz, come il rock, proprio quello là puro, sono 3 punti fermi, proprio 3 tipi di ascolto che io faccio quotidianamente. Chiaramente in quel disco si avverte di più, forse... il jazz classico, no? Cioè un pochino preso dagli standard, infatti non si esagera mai, non si fa In questo disco qui invece ho proprio spostato tutto, ho cambiato anche la formazione . E adesso suona proprio blues. Blues in una maniera forse un po' troppo forte, però insomma siamo tutti quanti contenti e abbiamo fatto questo. Bene, hai voluto azzardare. Esperimento, insomma. Hai voluto azzardare. Azzardare fino a un certo punto, le canzoni sono assolutamente intellegibili, probabilmente viene a mancare quella parte dell'erba cattiva che comunque chi lo ha ascoltato, ascoltando il suo disco nuovo, troverà. Comunque quell'improvvisazione jazz che ha caratterizzato fortemente l'erba cattiva viene a mancare, perché siamo tornati un po' alle radici, ma anche siciliane in qualche modo. C'è un sacco di folk, abbiamo proprio dei suoni che sono molto legati alla terra, che la terra e alla polvere, quindi... che stiamo respirando anche dell'Etna in questo periodo, insomma. Ah, certo. siamo proprio là, insomma. Beh, adesso apriamo la finestra su questo disco precedente, che il nuovo arriverà. Sentiremo anche quello. Sì, nel 2012, c'è tempo. Quindi, appunto. Però intanto sentiamo un momento l'erba cattiva. Noi abbiamo scelto per iniziare la traccia numero 2, che secondo me è una traccia anche indie, musicalmente parlando, Carmelo. È una traccia, scusami? Un po' indie, un po' oscura in alcuni momenti. È per quello interessante, a mio parere. La stessa storia, suppongo che sia. Sì. Sì, è un frammentino, proprio... è realmente un frammentino. In quell'album ho messo due o tre cose che sono proprio piccoli frammenti di vissuto dell'anno precedente. Ma sì, un frammento significativo, secondo me, Carmelo, se io mi permetti. Io ti ringrazio, insomma, perché non tutti l'hanno apprezzato, anzi. In un sacco di recensioni proprio dicono, cioè, tra le meno riuscite. Io vedi, noi le recensioni le leggiamo, sì, però dopo scegliamo noi, hai capito? E le facciamo, le scriviamo noi. Andiamo a sentire la canzone. Ok, ecco. La stessa storia, eccola qui. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sembra un film che ho già visto ieri, però è accennata la storia, gli attori incerti sul da farsi, tutte le immagini girate fuori fuoco, ovvio è scontato l'epilogo. Sembra una vecchia storia, sempre la stessa, un po' meno intensa, leggermente diversa, somiglia ad un cane che si rincorre la coda, o all'eco distante di qualcuno, qualcosa. Ricorda una foto in cui abbandonati guardiamo altrove. Stessa foto in cui dai tuoi occhi non si distingue il colore. Blu Radio Veneto. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo al telefono con Carmelo Amente, stiamo ascoltando, chiacchierando con lui della sua vita artistica, e stiamo ascoltando tracce dal suo Erba Cattiva, l'Erba Cattiva, anzi. Maurizio. Sì, sarà anche un frammento, Carmelo, a me è un frammento che a me piace particolarmente, un frammento, sì, cioè un minutaggio molto breve, però non vuol dire assolutamente niente, ha dato un senso alle cose, a mio parere, musicalmente è un pezzo abbastanza interessante, direi molto interessante, a mio parere. Per quello lo abbiamo scelto, Carmelo. Come? Scusami. L'abbiamo scelto per quello, perché musicalmente è un pezzo interessante, decisamente interessante. Allora, al di là delle critiche non critiche... A noi una traccia piuttosto classica, insomma, in un album come Erba Cattiva, comunque sono partito proprio... Cioè, anche se tu guardi la copertina, no? Che sì. È un patchwork, sì. Cioè, con tutti quanti... denoto proprio la varietà musicale, anche se esatto. Poi a livello, come posso dire, quando ho scritto i testi comunque sì. Alla fine è proprio quasi un concept, comunque volevo però parlare di persone a disagio in situazioni, però non di persone arrese, di persone a disagio in diverse situazioni, la stessa storia è come alcuni altri brani, ad esempio Marcia Nuziale sì. O quelli Bambole, insomma, descrivo delle piccole situazioni in cui queste persone sono a disagio proprio a livello intimo e sono state le canzoni un po' più difficili da scrivere, insomma, comunque andare a fotografare poi alcune cose, insomma, adesso proprio scadendo nel banale, quando vai a scavare un pochettino dentro di te, cioè cerchi di raccontare una mia storia che ti è successa, non è proprio semplicissimo, anche perché sai che poi questo disco, insomma, ti gira... Non è solo facile, comunque tra le canzoni più difficili a livello compositivo del disco, nonostante siano quattro accordi ripetuti per quattro strofe, insomma. Sì, sì, sono d'accordo, però è una canzone che tiene molto, a mio parere, è interessante. E che band ti ha supportato in questo disco? Chi è suonato con allora, te? In questo disco qui mi sono circondato di musicisti jazz, proprio... jazz, cioè Daniele Di Natale che è un batterista jazz incredibile, cioè. bravo decisamente, sì, veramente molto bravo, che si è prestato anche a suonare del rock rumoroso con me, insomma, anche in passato. E il mio bassista di sempre, che è Daniele Sorce, è probabilmente l'unico disco che io ho fatto senza di lui, sarà il prossimo. E poi Salvo Minnella dei Posh, che è stato anche la persona che ha registrato l'album, tra l'altro metà della produzione artistica dell'Erba Cattiva è sua, perché ho capito. E ti hanno supportato anche dal punto del mastering, anche dal punto delle date dal vivo che hai fatto, o dicevi che avevi fatto delle date acustiche e basta? Praticamente poi sono partito da solo, sono partito da solo e mi sono fatto accompagnare in due o tre date, se non ricordo bene, dal percussionista Graziano Latina, che suona con Davide Rosolini e La Clinica, è una band qui del posto che fa furore. Bene. E lui mi ha accompagnato in due o tre date, però voglio dire, insomma, le date poi alla fine un pochettino più importanti, che ne so, sono stato a Resteria Notte, per esempio, cioè me lo sono dovuto accollare da solo, è stato un piccolo trauma, nel senso, non eravamo pronti come band, alla fine ho fatto due o tre concerti qui a Siracusa e il resto del mini tour, quindi una quindicina di date con Graziano, e sono state toste, però insomma questo qua è l'unico rammarico che io ho rispetto all'Erba Cattiva, cioè non essere solo pronto ad affrontare un tour vero. Volevi una promozione maggiore musicalmente parlando, insomma. Sì, perché l'ufficio stampa ha funzionato, insomma, io non me l'aspettavo, insomma, voglio essere sincero. Beh, è una cosa positiva, dai, assolutamente. Sì, no, infatti adesso sto massacrando i ragazzi che suonano con me affinché ci faccia un live decente, che insomma tutti siamo pronti a partire, perché non voglio fare la cosa che ho fatto precedentemente, tra l'altro che è stata, insomma, un'esperienza veramente molto bella, perché comunque stare in giro a suonare, adesso a parte la fatica, gli spostamenti, eccetera, eccetera, soprattutto alla Sicilia, che è un po' un problema, soprattutto economico. Ma solo la Sicilia, pensi? Solo la Sicilia che sia un problema, anche in altri posti probabilmente, o no? Sì, però quando vivevo a Roma e ci spostavamo con le band, sì, era differente. Cioè, sai, spostarsi da Roma a Firenze o a Milano costa almeno la metà da spostarsi al Siracusa. Questo non lo sapevo. Ho capito. Tosta, insomma, da questo punto di vista, anche perché comunque hai per forza il bisogno di portarti strumentazione. Certo. è chiaro, è così. Quindi insomma cammino al furgone, diventa un po' un delirio piacevole, io continuo a ripetere, però economicamente non è, non è piacevole. No, assolutamente. Ecco, infatti, cioè... è chiaro, sì, sì. Chiarissimo. Parlando del discorso, che continuando il discorso, tu hai parlato della copertina molto varia, e il disco giustamente è molto variegato, ha tanti motivi, ha tanti intrecci musicali, ed è bello per questo anche, tutti i tuoi amori che vengono fuori. Sì, è proprio un disco di ascolti e di lettura, la cattiva. Io, a parte che il mio primo disco è proprio... disco cioè, a lunga durata, possiamo dire questo. Sì. Esatto, esatto. E proprio riflette tutto quello che ho letto, tutto quello che, o quantomeno una parte di quello che ho letto, una parte di quello che ascolto. Sono un ascoltatore onnivoro, quindi non faccio una grande differenza tra Robbie Williams e Sepultura, ecco, insomma, bene. Sinceramente, nel senso, per me la cosa importante è che mi emozioni. A forza di ascoltare la musica in questo modo, poi è venuta fuori questa cosa qui che è l'erba cattiva, che insomma è veramente un bel collage di suoni e di colori. Sono veramente molto soddisfatto di quel disco. Probabilmente il disco nuovo sarà, io ripeto, è un pochettino più blues, quindi giusto, però è stato frutto di una ricerca, insomma, di un anno e mezzo. È giusto anche che sia così. Certo. Ma passiamo, Paolo, all'altro pezzo che abbiamo scelto, Carmelo, non mi ricordo la traccia, però la traccia la numero 6 si intitola Domande, e se volete andiamo la sentiamo, Carmelo, e poi ne parliamo assieme, ok? D'accordo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Prego, entra, siedi, fa pure come vuoi. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 22:16, siamo già a buon punto del nostro appuntamento, appunto con Blu Radio Sera. Penso di aver detto 6.000 volte punto e appuntamento e via dicendo. Comunque sia, l'importante è che siamo insieme a Carmelo Amenta in via telefonica e stiamo ascoltando il suo disco che si intitola L'erba cattiva. Maurizio, questo era un pezzo che ho scelto, sai perché, Carmelo? Perché avevo un sacco di intrecci musicali, di sentori musicali tenuti assieme dal piano, secondo me. Cosa dici? Sì, che è venuto in un secondo piano, in un secondo momento. Però li teneva assieme, un sacco di fermate, di riprese, un sacco di cose collegate, ma il piano li tiene benissimo. Il piano è fondamentale in questo pezzo, non so se sei d'accordo. La scuola del blues, no? Esattamente. Ho ascolti tipo la Holiday. Esattamente, proprio piena, così. Queste cose qua, chiaramente senza paragonarmi. L'idea però di fare un pezzo, perché il piano è venuto dopo, Carmelo? Il piano mi è venuto dopo perché sentivo la mancanza di di uno strumento che creasse suono, quindi un attimo di sustain con il silenzio. Quindi abbiamo allontanato un attimo le mie chitarre e abbiamo messo in primo piano questo pianoforte qui, che te lo rende più caldo, comunque in assoluto, come dire, cioè col testo, insomma, ci stava proprio perfettamente. Queste domande, Tra l'altro, insomma, io ripeto, poi è frutto anche degli ascolti che faccio, per cui storie come la Holiday un pochettino insegnano, insomma. Io pensavo un attimo a tenere uno smonk con i Karate, per dire, insomma, però. Quindi questo amore viscerale per quelle atmosfere, ma è un amore bello da proporre, è un amore da proporre nel senso anche positivo del termine, non difficile, ma che si può ascoltare, che si può recepire, insomma. Sì, io sono un po' ossessionato dalla formula belle canzoni che suonano bene. Adesso sulle belle canzoni non posso giudicare io, però sul fatto che suonino bene, quello sì. Questo tipo qui è stato ben prodotto, quindi insomma sono convinto che sia intellegibile anche per questo motivo qui. Bene, questa è una cosa positiva. Il prossimo, per esempio, nel prossimo mancherà questo sostegno del piano, perché volevo più silenzi che fossero reali silenzi e non parti sospesa, no? Abbandonerai lo swing allora, o no? Come? Abbandonerai lo swing? Lo abbandonerai? Un po' sì. Ti stai, non è che ti sia allontanato, ti stai allargando ai altri orizzonti da esplorare. Probabilmente sì. Prima ascoltalo, poi deciderai tu. Beh, quando lo sentirò, in ogni caso a me è piaciuto questo, quindi è già una cosa positiva, secondo me. Io deciso. Non so come ringraziarti, è una cosa veramente bella, anche lo spazio che mi dai è una cosa. Beh, è giusto che sia così, bisogna sempre far sentire le cose, bisogna scavare nell'interno delle cose e ci sono sempre cose positive, a mio parere, in ogni caso. Questa scelta del piano, ripeto, è fondamentale e adesso ho capito il perché tu hai messo il piano in quel momento là. Sì. Chi lo suonava il piano qua? Il pianoforte è sempre Salvo Minnella. Ok. Salvo è stato un elemento chiave in questo disco qui. Lui è un chitarrista fondamentalmente, però si divide in... È stato un contributo non da poco. Sì, cioè dalla produzione al pianoforte, alla voce. Lui è stato il cantante chitarrista dei Posh, che hanno avuto un attimo di notorietà. Di notorietà, sì. Purtroppo per un breve periodo facevano un pop classico veramente buono, poi insomma è successo. Poi le cose sono andate un po' diverse e così. Sì, sono andate in altro modo. Esattamente, insomma. Esattamente. Sì, ma è una cosa positiva. E una domanda ti volevi fare questa: come lo esegui un pezzo simile dal vivo, in quella dimensione che tu hai detto per la presentazione del tour? Domande piccolo tour. Praticamente irripetibili, fatte in quella maniera lì, visto che ho fatto, come già ti ho raccontato, un tot di concerti da solo, ho praticamente cambiato la parte musicale. Ah, ho capito. Cioè l'hai trasformata, l'hai rivoluzionata, necessariamente. Quasi totalmente, l'ho suonata chitarra e voce, non c'erano più quei silenzi, ma d'altra parte è proprio un'esigenza, anche perché certo, non puoi andare dal vivo e fare la stessa canzone con questi arrangiamenti, insomma, arrangiamenti importanti. Mi è sembrato superfluo comunque andare a creare una situazione di quel genere senza quel tipo di strumentazione che supportava quella canzone lì, per cui l'ho resa funzionale al live che andavo a proporre. D'altra parte, insomma, quando vai dal vivo comunque devi fare il conto. Sì, esattamente, devi fare il conto di quelli dei musicisti che hai, dei tuoi mezzi praticamente. Esatto. È quello importante. Passiamo a un altro pezzo che abbiamo scelto, non so che traccia abbiamo scelto, Sergio, non mi ricordo. La traccia numero 9 che si intitola Non è niente. Eccola qui. È vicino alla mia, la tua stupida bocca. Ascolto ogni sua frase, però senza guardare i tuoi occhi per paura di avvertire il dolore delle mie mani contro questo muro. Credimi, io non cerco niente, niente come me, che sto ancora in piedi, le mie lacrime. Sono qua, non solo per te, e quando non ci sei, io mi distraggo un po', ed ora che sei qua, io sorrido, poi torno a casa solo. Credimi, la mia lacrime, sono foglie, sono foglie. Credimi, sarò solo un'ombra in transito se vuoi, e non c'è niente che può dissetarmi. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ultimi 5 minuti circa con Carmelo Amenta al telefono. Stiamo scoprendo il suo disco L'erba cattiva. Questa che abbiamo sentito era la traccia numero 9 che si intitola Non è niente. Maurizio. È una traccia molto interessante. Perché l'ho scelta, Carmelo? Perché è diversa. Anche questa è diversa. Non è le solite tracce. Era complicata musicalmente. È per quello molto interessante. C'è poco da fare. Una canzone che l'unica canzone di questo disco qui che mi porto dietro da una band di cui ho fatto parte, che si chiamava che si chiamava L'Alba Scura. È una canzone che sfociava poi in un refrain veramente noise. Esatto, non sei arrivato a questo, però potevi arrivarci anche qua. Sì, proprio, cioè, se tu l'ascolti bene, proprio ti ci porta. Chiaramente in questo disco invece abbiamo preferito fare come ci insegnano gli anni messi al blu, cioè sembra che parte. Sì. In verità è già lì, è palpabile, tocca a te andare a prendere la sostanza, e è stato così. È una canzone, è importante anche un po' per il testo, nel senso, è una di quelle fotografie di cui ti parlavo prima, quindi un po' il mettersi a nudo con questi suoni, e chiaramente tu stai scegliendo adesso un tot i brani con il pianoforte in... Sì, a me piace particolarmente, mi sono permesso Carmelo di scegliere, perché il pianoforte fatto benissimo. A me piaceva particolarmente in questa dimensione, questo pezzo noise, ma un po' oscuro, decisamente oscuro, anche se poi non sfocia nel cosiddetto noise che di cui parlavi con la band, ma è oscuro come pezzo. Una critica ha scritto che è un pezzo poetico, sono d'accordo, è un pezzo poetico, però su una base musicale abbastanza strana. Sì, qui si riflette il mio amore per cose che non si aspetta, cioè che uno non si aspetta. Esatto, proprio per quello. È per quello. Io amo tantissimo grandi cantautori dei tempi, che ne so, cioè dei tempi, mica tanto dei tempi. Io sono un grande amante, secondo me il più grande cantautore americano è Randy Newman, cioè, hai ragione su questo, ecco, perfetto. Hai ragione. Però ho anche un amore per roba più classica, che ne so, Billy Joel. Stranamente, se si tratta di pianisti cantanti, io suono quattro strumenti e tra questi quattro non c'è il pianoforte. Appena ho visto Salvo che ha messo le mani sul pianoforte è proprio cambiato il disco. E Randy Newman è sinonimo proprio di piano, ma piano suonato in modo particolarissimo. È quello il punto. In questo caso, vedi, utilizziamo ad esempio il cosiddetto minimalismo, cioè tre note gli fanno proprio il brano, cioè si va in profondità con tre note precise. Non lo so, insomma, se ci sono riuscito, però insomma era un obiettivo. Secondo me sì, ci sei riuscito, perché almeno nei pezzi che abbiamo scelto, che ho scelto io assieme a Sergio, c'è questa nota di sperimentazione, è quello importante secondo me. Sì, un po' sì, infatti continuo ad essere in continua ricerca, questa storia qua della sperimentazione ti ringrazio per averla citata, anche perché non si tratta di vera e propria sperimentazione, si tratta proprio di prendere una roba che è già stata fatta, probabilmente, insomma, però insomma di farla tua, proprio di farla sentire che è tua. Io funziono ad energia un pochettino, quindi quando senti che la cosa è palpabile, è forte, ti rendi conto di quale strumento ti deve portare avanti in questo caso, e non è l'unico brano dell'Erba Cattiva, insomma. Certo. Cioè, sono altri. Il pianoforte che ti porta avanti con le sonate profonde, con le sue cose. Sì. Io poi ti ripeto, si uniscono tutti quanti i miei ascolti, per cui insomma fai un minestrone, insomma, ci metti dentro Billy Joel, Randy Newman, le cose, anche un pochettino di indie rock. Sì, come no, assolutamente, assolutamente. E questo è positivo. No, io proprio L'Erba Cattiva comunque è un piccolo, un mio piccolo amore, insomma, me ne sono innamorato. Di solito delle cose che registro non sono proprio innamorato. Però è un punto di partenza, visto che adesso hai l'album nuovo. Però ricordiamo i riferimenti tuoi, c'è un sito, eccetera. Non ho capito. Se ricordiamo il tuo sito, Carmelo. Il mio sito è, per il momento, è soltanto lo Space. Perfetto. In cui ci sono tutti e tre gli album che sono in download gratuito. Certo. Poco prima dell'uscita del disco nuovo, comunque, aprirò il sito ufficiale mio, insomma, ci saranno sia gli album gratuiti che il disco nuovo, che sarà a pagamento, però ci saranno le 10 canzoni del disco nuovo più... Invece della Ghost Track ci sarà un Ghost EP, vale a dire ci saranno 5 canzoni che noi daremo gratuitamente proprio all'interno del disco a chi lo acquisterà insomma, in pratica ci sono 15 canzoni. Benissimo. È tutto quasi. Una corposa produzione, molto interessante. Una corposissima produzione. Corposissima. Se tu consideri che l'abbiamo anche registrata in 6 giorni, è stato... E so, tanto divertente quanto faticoso. Ecco, insomma. Benissimo. Ok, siamo verso la conclusione, Carmelo. Io sono stato molto contento di averti intervistato, di aver scoperto la tua musica. Io non posso fare altro che ringraziarvi per l'attenzione che mi avete dato, veramente. Grazie di cuore. Veramente grazie. Grazie a te. E abbiamo scelto l'ultimo pezzo, che è la traccia, non mi ricordo il numero. La 10, guarda caso, si intitola Si chiude. Esatto, è un pezzo molto malinconico, ma decisamente molto interessante. Era con noi Carmelo Amenta. Carmelo, ci sentiamo alla prossima occasione. Allora. Se verrai qua a suonare, siamo disposti ben volentieri ad ospitarti. Ragazzi, speriamo veramente tanto presto. Ecco, ok. D'accordo. Grazie Carmelo, alla prossima. Buona serata, ragazzi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Volevo solo stringerti un po', mi ha detto ed io ho sentito che ancora un cuore ce l'ho. Volevo solo stringerti un po', mi ha detto provar di nuovo a fare un po' di strada insieme. Dai tuoi baci e sei così bella che mi annoi ma la notte non regge il confronto col tuo viso ed ora che so dei tuoi peccati, avrei voluto stringerti un po' perché so bene che domani pagherò i miei no. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo in ritardo, è ormai tempo di chiudere Blu Radio Sera per questo martedì 9 agosto 2011. Maurizio, questa sì. Sera abbiamo avuto ben due interviste. Personaggi, Giulia Villari, brava. Rocchettara. Di Roma. De Roma. E invece dalla Sicilia Carmelo Amenta, molto più pacato, diciamo, molto più cantautorale. Esattamente. Domani sono in soluzione. Mi hai lasciato aperta la pagina giusta qui del nostro sito, dateci un'occhiata per sapere chi verrà a suonare nei nostri studi nei prossimi giorni, tra cui appunto dicevi domani dalle 10, insomma, dalle 22 di sera. Sì. In soluzione assieme a me ed Agostino Spolavore, che darà una mano in regia e condurrà con me il programma. Mestrini. Sono di Mestre, però vivono a Roma. Anche loro. Voglio dire.